les bons pipis. Bola, oui, des dobos, ils donnent tchèque. Nous sans frais, mon encore frais. Nous sommes prêts, mon encore prêt. ichele iliwe papa che mama che dada fofo chele iliye novi che hoto che asifi chele iliye papa che mama che dada fofo chele iliye. Asifi chele filiye papa che mama che dada fofo chele filiye novi che hoto che asifi chele filiye papa che mama che dada fofo chele filiye filiye filiye.